oltre 10 milioni di euro. È l'ultima evasione fiscale in ordine di tempo nel settore dei call center. Riguarda una società di Roma che si è scoperto un mese fa ha sottratto al fisco oltre 8 milioni di reddito e IVA per 2 milioni e mezzo. Ma non è un caso isolato, sono reati tributari diffusi nel settore dei call center, come il mancato versamento dei contributi ai lavoratori, fatti passare per collaboratori occasionali o a progetto, quando molto spesso sono veri e propri dipendenti. Ve lo ricordate il film del regista Paolo Virzì, Tutta la vita davanti? Perché voi siete persone e fate un lavoro. Speciali! E allora forza ragazze, diciamo buongiorno a questa nuova splendida giornata! Buongiorno! È un bottino multiuso, signora Mortillaro, che esegue 14 funzioni. La realtà supera la fantasia. I casi sono frequenti. Un mese fa, a Vibo Valentia, è stata scoperta una società di call center che ha evaso il fisco per 14 milioni di euro. Pochi mesi fa era accaduto a Velletri, evasione IVA di oltre 3 milioni, evasione dei contributi per 5, ai danni di 240 dipendenti. Nel 2010 a Terni, omesso versamento IVA per oltre 1 milione di euro, 2 milioni e mezzo di euro di contributi non versati e lavoravano in nero 861 telefonisti. Almeno non erano minacciati col frustino, come è accaduto a una società di Incisa Valdarno. Altro che Virzì. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.